Il pesce rosso. Tua moglie? Per un po' mi è andato bene, perché questo mondo gay mi faceva schifo, perché non c'è un'unione, è difficile che trovi due che ci stiano, ma come negli altri posti. E allora poi amavo mia moglie, poi sai, poi si cambia nella vita. Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai? Il pesce rosso. Ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi...